Ogni mio viaggio si trasformava in una prova di resistenza fisica e psicologica. Perché? Perché doveva sempre essere così faticoso? Ogni paese in cui viaggi è la proiezione olografica del tuo livello di coscienza in quel momento. Se non c'è emozione, non comprendi, non impari, non cresci, disse la mia voce interiore in risposta alla mia domanda. Sono parole tratte dal mio libro Il ponte tra i mondi, che ben si prestano a introdurre l'argomento di questo video, il viaggio come percorso della coscienza. Ma per viaggiare non è sufficiente visualizzare, occorrono mezzi di trasporto reali, con ruote e volante. Sembrerà strano in un mondo dove a priori si ritiene che ogni impresa importante sia stata compiuta da uomini, eppure la prima persona a guidare un veicolo a motore fu Bertha Benz, moglie dell'ingegnere tedesco considerato l'inventore dell'automobile. Bertha, nel 1888, compì in Germania un viaggio di 180 km, una lunga distanza per l'epoca, a bordo del prototipo creato da suo marito. Quel primo viaggio su un veicolo a motore segnò un momento cruciale della storia umana e del viaggio. Bertha Benz. Berta aveva studiato tutto ciò che a una donna era permesso studiare e in più aveva imparato nozioni di meccanica nel garage di casa. Con il denaro della dote finanziò il progetto del marito e ne divenne di fatto la socia. Lui costruì e brevettò la prima automobile a tre ruote nel 1886, ma l'impresa si arenò poiché a nessuno interessava comprarla. Allora entrò in scena Berta, determinata a mostrare al mondo che l'automobile avrebbe cambiato il futuro dei trasporti. Insieme ai due figli intraprese un viaggio, il primo mai compiuto, alla guida del prototipo. Durante il percorso dovette fermarsi diverse volte per rifornirsi di carburante e sistemare i guasti che via via si manifestavano, mostrando una creatività squisitamente femminina. Con un fermaglio del suo cappello sbloccò una valvola ostruita, con una giarrettiera isolò un cavo scoperto e con una forcina per capelli aggiustò il sistema di iniezione. Inventò le pastiglie del freno, aggiungendo ai deboli freni di legno le suole in pelle delle sue scarpe. Dopo 12 ore di viaggio, Berta e i due figli giunsero a destinazione. L'impresa finì sui giornali e ciò fornì alla ditta Benz pubblicità e finanziamenti per migliorare il prototipo. Il percorso che lei coprì da Mannheim a Pforzheim nella Foresta Nera oggi è noto come la Bertha-Benz Memorial Route. Un secolo dopo Berta, Anne-Marie Schwarzenbach, svizzera tedesca imparentata coi Bismarck, attraversò in auto il Medio Oriente ed è del grande viaggio di Anne-Marie, esploratrice dell'anima, che usò il viaggio come strumento di conoscenza che vogliamo parlarvi in questo docuvideo. Il viaggio per Anne-Marie era come una vita condensata in poco tempo, nulla a che vedere con il turismo mordi e fuggi come lo conosciamo noi, che per un po' ci fa dimenticare la nostra routine quotidiana. Il viaggio, anzi, metteva in luce le debolezze, le fragilità ed era un modo per smascherare le proprie zone di comfort. Anne-Marie aveva già sperimentato il viaggio come cura estrema per liberarsi dalla tossicodipendenza. Nell'ottobre 1939 aveva viaggiato in Turkestan ed errando da sola nel deserto, per un po' ci era riuscita. La nostra vita assomiglia a un viaggio. E così il viaggio mi sembra più che un'avventura e un'escursione in luoghi insoliti, un'immagine concentrata della nostra esistenza. Ci sentiamo spesso fin troppo sicuri. Crediamo di aver costruito la nostra dimora una volta per tutte. Siamo facilmente portati a credere a una stabilità. Dimentichiamo che si tratta del corso della vita, che la terra è in perpetuo movimento e che l'alta e la bassa marea, i terremoti e gli eventi lontani dalla nostra realtà, visibile e tangibile, toccano tutti. Mendicanti, re, figure dello stesso grande gioco. Lo dimentichiamo, apparentemente per amore della pace della nostra anima, la quale però è costruita su granelli di sabbia. Lo dimentichiamo per non sentire la paura e la paura ci rende ostinati. Chiamiamo realtà solo ciò che possiamo toccare con mano e ci riguarda direttamente. Dove potremo costruire la nostra casa dipende da mille e un caso. La pace delle nostre povere anime, invece, è un meraviglioso dono della libertà a cui non si deve correre dietro, per la quale non si deve mercanteggiare. Il viaggio, invece, che a molti appare come un bel sogno, un gioco seducente, la liberazione dal quotidiano, la libertà per eccellenza. In realtà è impietoso. Una scuola per abituarci all'inevitabile corso della vita, all'incontro e alla perdita, in cui si fa sul serio. Come scuola delle donne ci siamo già occupate del viaggio come ricerca spirituale, seguendo le tracce di Gertrude Bell, Alexandra David-Neel e Amalia Nizzoli. In questo docuvideo di Annemarie Schwarzenbach non vogliamo raccontare tanto la sua breve vita, preferiamo porre l'attenzione sugli incredibili viaggi che compì nei pochi anni in cui calcò il pianeta, specialmente quello con Ella Maillard in Afghanistan nel biennio 1939-40, di cui Annemarie tenne un diario, edito in Italia dal Saggiatore, col titolo Tutte le strade sono aperte e tradotto da Tina D'Agostini. Diario da cui abbiamo preso le citazioni di questo docuvideo. Pagine che entrano nel cuore con la stessa grazia di chi le ha scritte. Questa donna efebica, eterea, distante, come fosse solo di passaggio nel mondo, con la sua vita travagliata e schiava della droga, che seppe scrivere pagine di assoluta poesia riguardo ciò che i suoi occhi vedevano mentre il suo corpo viaggiava verso est, a bordo di una Ford accanto all'amica Ella. Inevitabile pensare soprattutto a Gertrude Bell, che mezzo secolo prima percorreva le stesse piste di Annemarie, ma a bordo di un cammello. Anche Gertrude viaggiava apparentemente per documentare il Medio Oriente come reporter e archeologa, ma anche lei, soprattutto, praticava il viaggio come specchio dell'anima, come ha scritto nel suo Viaggio in Siria, di cui lasciamo il link in descrizione. Entrambe, Annemarie e Gertrude, furono figlie di ricchissimi industriali. Si lasciarono conquistare dalla paterna e protettiva affabilità degli uomini delle tribù. Ma alle donne segregate negli harem e nella schiavitù domestica, Gertrude rimase indifferente, mentre Annemarie empatizzò con loro e ne raccontò le tristi condizioni di reclusione nei suoi scritti, come sentirete nelle letture in coda al docuvideo. Certo, Gertrude lasciò spontaneamente la sua dimora di famiglia in Inghilterra, mentre Annemarie venne praticamente cacciata dalla madre, sicuramente mascolina e anaffettiva, ma anche esasperata dagli eccessi della figlia e incapace di sopportarli oltre. Annemarie Schwarzenbach nacque nel 1908 in una ricchissima famiglia svizzera di industriali, nel canton dei Grigioni, in una delle valli alpine più incantevoli. Il padre era un uomo colto e dedicò molto tempo alla figlia dal viso angelico e dall'intelligenza brillante. La sua infanzia fu ricca e fortunata, aveva con la madre un legame fortissimo, il padre la viziava, il fratello la capiva. Annemarie fu dichiaratamente omosessuale, anche se sposò un diplomatico francese per avere un passaporto diplomatico che le consentisse di muoversi più facilmente. Vestiva abiti maschili e cravatte, ma nonostante l'aspetto androgino, era molto femminile. Diversamente dalla madre, che aveva invece una spiccata attitudine al comando, amava solo i cavalli che allevava ed era molto mascolina. Anche sua madre ebbe un'amica speciale, che viveva sotto il loro stesso tetto con il consenso del padre. Dunque Annemarie ebbe un esempio molto significativo davanti agli occhi fin da ragazzina. La fotografa svizzera Marianne Breslauer definì Annemarie un arcangelo di ambiguità carismatica e mal di vivere inconciliabile. La dimora di famiglia era una piccola reggia, un mondo dorato del quale però ad un certo momento lei si stancò. Non concepiva che ci fossero distanze così grandi tra la ricchezza del suo entourage e la povertà di tanti popoli. La sua attitudine anticonservatrice le attirò l'ostilità della madre, che organizzava eventi mondani con artisti e membri dell'alta società, tra i quali lo spirito di Anne-Marie non si sentiva a suo agio, poiché lei rappresentava l'esatto opposto della rigida impostazione familiare ultraconservatrice. Si iscrisse all'Università di Zurigo, facoltà di storia e letteratura, e frequentò alcuni corsi alla Sorbona. Tuttavia fu a Berlino e a Monaco dove si sentì più a suo agio, soprattutto quando conobbe la forte e positiva Erika Mann, figlia del Nobel per la letteratura Thomas Mann, con la quale ebbe un rapporto burrascoso ma molto intenso, che fu il suo punto di riferimento per tutta la sua breve vita. Poco più che ventenne, Anne-Marie viaggiò in Spagna, Vicino Oriente, Africa, Stati Uniti, Paesi Baltici, Unione Sovietica, Svezia, Austria e Cecoslovacchia. Dal 1933 partecipò nel Vicino Oriente ad alcune campagne di scavi archeologici e soggiornò in Siria e in Iran. A 27 anni sposò Claude Clarac, un diplomatico francese a Teheran. Era il 1935. Ella Maillard conobbe Anne-Marie Schwarzenbach nel 1938 a Yverdon, dove Anne-Marie era in cura. Le due viaggiatrici erano possedute da uno spirito d'avventura particolare. Dalla Svizzera raggiunsero l'Afghanistan a bordo di una Ford Roadster Deluxe e diedero un contributo inestimabile alla letteratura di viaggio. Attraversarono i Balcani e la Turchia, poi l'Armenia e quindi dal Mar Nero fino a Trebisonda, in Iran e nel Kurdistan, poi a Teheran e Tabriz, nell'Azerbaigian iranico e infine in Afghanistan e ad Herat. Due donne che senza paura partirono con una precisa idea spirituale del viaggio. Come scrisse Anne-Marie, questo desiderio, questa ricerca dell'assoluto, sono probabilmente i motivi profondi che spingono ogni vera viaggiatrice. Il resoconto tra sognante e dolente delle desolate terre che attraversò fino in Afghanistan sembra lo specchio della sua stessa interiorità, anch'essa desolata e incapace di trovare stabilità e un suo posto nel mondo. Vagavo così, per Istanbul, come una sonnambula, rifiutando di abbandonarmi allo spettacolo familiare che mi circondava. E oltre il mare di tetti, il mio sguardo si rivolgeva sempre alle rive dell'Asia. Laggiù iniziava un altro mondo. Iniziavano le colline brulle dell'Anatolia, simili a onde impietrite. Là soffiavano venti più forti, la voce umana si perdeva e lucide greggi pascolavano su prati senza fine. Laggiù si consumavano sacrifici che si perpetuavano di steppa in steppa verso est, fino alle terre dei nomadi dagli occhi a mandorla del Turkestan e sempre più lontano, fino al Mar Giallo. Laggiù c'era la soglia che dovevo varcare. A Istanbul un ingegnere, giovane e sveglio, ci avverte. Due donne che viaggiano sole, senza parlare nemmeno una parola di turco, e vogliono andare in Iran da Trebisonda, passando per l'interno dell'Anatolia? Magari non avete problemi, ma forse ne avrete quanto basta per farvi passare la voglia di viaggiare per tutto il resto della vita. Le due donne prepararono il viaggio con grande scrupolosità. Non si buttarono da incoscienti in una pazza avventura, poiché erano entrambe professioniste del viaggio. Studiarono carte, consultarono esperti, allertarono redazioni giornalistiche a Londra, Parigi, Berlino, cui inviavano periodicamente i loro reportage, grazie ai quali potevano continuare a finanziare il viaggio. Alla partenza, il bagagliaio della Ford straripava di ben cinque apparecchi fotografici, macchine da scrivere, mappe, libri fissati sul retro degli schienali e ricambi meccanici. Ma, come vedremo, a Kabul si separarono. Il loro rapporto, già difficile, si interruppe e Anne-Marie tornò in Europa mentre scoppiava la Seconda Guerra Mondiale, mentre ella continuò col percorso che aveva progettato fino in India. Ella raccontò la sua versione del viaggio nella sua dimensione di scoperta interiore compiuto insieme all'affascinante amica e lo intitolò La Via Crudele, un titolo davvero simbolico. Anche questo libro in via di lettura nel nostro canale YouTube. Ella era una donna positiva, pratica, sportiva, desiderava salvare la sua amica dall'autodistruzione, ma Anne-Marie non voleva essere salvata. Voleva viaggiare coi suoi fantasmi. A Sofia, Anne-Marie per la prima volta tradì la parola data e si procurò della morfina. Nonostante le difficoltà in famiglia, Anne-Marie sentiva nostalgia di casa e ciò la rendeva fragile. A Istanbul, Anne-Marie ebbe una seconda ricaduta nella droga e ciò compromise il rapporto tra le due. Ad ogni modo arrivarono in Armenia, il mitico Ararat, il Monte dell'Arca, che delimita la frontiera fra Iran e l'allora Georgia sovietica, le valli dell'Azerbaigian. Ricordo perfettamente il velo delicato e conturbante della rugiada. Il giorno in cui, spossata dal calore dopo la ripida salita, tremavo di freddo nel piccolo giardino dell'emiro, mentre una giovane contadina mi portava alle labbra la brocca d'acqua. Perché noi siamo così. Gioiamo alla vista delle perle, del mare azzurro, di un'ora di pace nonostante il fragore degli incendi. Guardiamo oltre i campi di macerie per imparare tutti la stessa preghiera. Signore, aiutaci a sopportare questa vita. In questo paese spietato si può essere tentati di credere che il globo stia per spegnersi e corra verso la propria fine, divenuto ormai inospitale per il breve soggiorno dell'uomo. Devo ritornare con i piedi per terra, mi dico, e difendermi contro questa terribile visione. La lotta con le nuvole, con il vento che toglie il respiro, con il freddo e la stanchezza, con l'empia paura. La lotta con l'angelo e per il pane quotidiano sono tutt'uno ed è questo il nostro destino. Che cosa mi può importare di queste rovine, del colore dell'argilla, del deserto? Tanto varrebbe accusare il tempo che fugge e volergli girare le spalle, tanto varrebbe volersi proteggere dal proprio stesso respiro che scorre. Giunte a Teheran, dovettero sbrigare molte pratiche burocratiche per lasciare il paese e poter finalmente prendere la strada dell'Afghanistan, distante 1200 chilometri. Ma a Kabul, come abbiamo detto, le aspettava la fine del viaggio insieme. Anne-Marie si ammalò di bronchite, il medico del consolato le impose 10 giorni di convalescenza e il fermo. Anne-Marie, nervosa e depressa, non si curava e continuava a fumare, dunque non migliorava, ciò che scatenò un'accesa discussione con ella, la quale capì che il viaggio insieme era finito. Anne-Marie, in quanto moglie di un diplomatico, si trasferì al consolato francese. Ella, come abbiamo detto, proseguì per l'India e vi rimase. Anne-Marie si imbarcò con la sua Ford per tornare in Europa. A quello seguirono altri viaggi e reportage, ma la sua irrequietezza non le dava tregua e durante un soggiorno negli Stati Uniti si mise in condizioni di venire ricoverata in una struttura psichiatrica da cui la riscattò il fratello. Viaggerà poi ancora in Congo e in Nord Africa. Mi viene servito del cibo, una scodella ricolma di un dolce fatto di zucchero e albume montato. Il giovane spezza il pane piatto, ne immerge alcuni pezzetti nella massa bianca e me li porge. Poi distribuisce ciò che rimane ai bambini. Poi tè verde, non zuccherato. L'Achim sciacqua lui stesso 3 volte la tazza del tè. Il vostro pane è buono, dico. Annuiscono. Abbiamo pane, abbiamo grano e campi, e abbiamo pecore, cavalli, asini, abbiamo anche uve e meloni. Siamo fortunati. Abbiamo l'acqua qui al villaggio. Siamo afghani, veniamo dalle montagne. Hanno costruito le capanne dove la terra è povera, l'acqua preziosa e la vita dura, in mezzo ai grandi venti del deserto. Hanno conservato il loro buon pane, i loro cavalli fieri, e le donne non portano il velo. Forse sono altrettanto poveri dei nostri tagiki, o più poveri ancora, perché a guardar bene, in questo villaggio ci sono meno acqua, meno alberi, meno campi. Si può a malapena chiamarla un'oasi. E il deserto è altrettanto crudele. Ma che ospitalità! Che inno alla vita! Allora ricordo che a Ishtalif io sono solo un'estranea. Arrivata per caso in quei vicoli, in quei giardini e cortili, tollerata solo come spettatrice sulla soglia di un'esistenza regolata secondo leggi pacifiche. Lascio il villaggio e senza nemmeno sapere dove mi dirigo, vado incontro a una lunga sera, incontro alle distese desolate di quei colli gialli che si succedono come onde del mare. Uccidere le ore, frenare l'impazienza, arginare la lontananza. Eppure poco fa provavo ancora un senso di pace presso i vasai di Istalif e nella luce della sera la terra sembrava riversare la sua clemenza su di me e su di loro. In quel momento un uomo esce dal suo giardino, mi saluta con aria gentile e severa, offrendomi una manciata di noci che estrae dalla larga cintura. Apre la porticina. Prendile, ne ho ancora. Questo è il mio giardino, la mia capanna. Il sole splende ancora tra i rami del vecchio albero. Il fuoco è già acceso. Sii mia ospite questa sera. Entra. Ella e Anna Marie tuttavia continuarono a scriversi, ma l'ultima lettera di Ella rimase senza risposta. Anna Maria era morta al suo ritorno in Svizzera per un banale incidente in bicicletta nel 1942. La madre e la nonna, che non accettarono mai la vita scandalosa e sregolata della giovane donna, cercarono di nascondere la sua produzione letteraria e anche la sua memoria, bruciando le sue carte, e per un periodo ci riuscirono. La memoria di Anna Maria Schwarzenbach sembrò cancellata. Ma a 40 anni dalla sua morte, alcune carte riemersero, restituendole il posto che le spetta tra le grandi viaggiatrici del XX secolo. Di seguito ascolterete due capitoli tratti da Tutte le strade sono aperte, dedicati alle donne e a come Anne-Marie le vedeva ed entrava in empatia con loro. Pagine di grande umanità e dolcezza che, meglio di qualunque altra descrizione, ci permettono di percepire l'anima di questa grande viaggiatrice che fu Anne-Marie Schwarzenbach. Fino a quel momento, ella e io avevamo potuto fare solo discorsi teorici sulle donne afghane. Nel corso di molte settimane trascorse in questo paese, rigidamente maomettano, avevamo fatto amicizia con contadini e funzionari, cittadini, soldati, commercianti dei bazar e governatori di provincia. Ovunque eravamo state accolte con ospitalità. E avevamo cominciato ad affezionarci a questo popolo di uomini coraggiosi, allegri e integri. Nella magnifica antica città di Herat avevamo assistito alle gare di scherma e alla preghiera comune dei giovani che la sera si riunivano su un prato davanti alla porta della città. In viaggio, durante i lunghi percorsi senza ombra, quando facevamo una sosta, si univano a noi semplici contadini che dividevano con noi i loro meloni. Non avevamo mai dovuto piantare la tenda e cucinarci la zuppa da sole. Nei paesi venivamo salutate dai sindaci e accolte con tè e uva. La sera ci accompagnavano in bei giardini dove attenti servitori portavano il pilaf, la pietanza locale a base di riso, e mentre mangiavamo arrivava l'ospite con il suo seguito per farci visita, fermandosi spesso a parlare a lungo con noi. Ma sembrava di vivere in un paese senza donne. Conoscevamo il chador, l'abito che nasconde tutto il corpo delle maomettane e che ha poco in comune con l'immagine romantica del delicato velo delle principesse orientali. Avvolge stretto il capo e davanti al viso ha una specie di piccola grata per ricadere poi in ampie pieghe fino a terra, lasciando a malapena visibile le punte ricamate e i tacchi consumati delle calzature. Avevamo visto alcune di queste figure imbacuccate, informi, passare veloci per i vicoli del bazar. E sapevamo che erano le donne degli afghani che camminavano fieri e liberi, chiamavano la compagnia, stavano allegramente a conversare e trascorrevano metà della giornata a oziare nelle case da tè e nel bazar. Ma queste apparizioni spettrali avevano poco di umano. Erano ragazze, madri, vecchie. Che età avevano? Erano allegre o tristi, belle o brutte? Come vivevano? Che cosa facevano? A chi andava la loro attenzione, il loro amore, il loro odio? In Turchia, così come in Iran, avevamo visto scolare giovani esploratrici, studentesse, anche donne autonome, che lavoravano, oppure altre impegnate nel sociale che contribuivano alla costruzione di una fisionomia nazionale e la cui esistenza non poteva più essere ignorata nella vita del paese. Sapevamo che il giovane re Amanullah, di ritorno da un viaggio in Europa, aveva introdotto in Afghanistan una serie di riforme realizzate in modo precipitoso, tentando di seguire in particolare l'esempio della Turchia. Aveva proceduto troppo in fretta. Gli veniva soprattutto rimproverata l'emancipazione delle donne. Per qualche settimana nella capitale, Kabul, era stato abolito il chador. Poi era scoppiata la rivoluzione, le donne erano ritornate nell'harem, relegate in casa e potevano ora mostrarsi nuovamente in strada solo coperte dal velo. Questi primi accenni di libertà erano già stati dimenticati. Queste poche settimane dell'anno 1929 erano state cancellate dalla memoria delle donne. Un giorno fummo ospiti di un giovane governatore, aperto e intelligente, in una località del nord. Ella osò fare la domanda. Il nostro ospite aveva dimostrato grande comprensione per le necessità dello Stato afghano e aveva detto che la costruzione di strade avrebbe aperto il paese al commercio, che sarebbero poi nate industrie, ma anche scuole e ospedali. Si potevano escludere le donne da un simile programma di progresso. Non avevano il diritto di partecipare a questa nuova vita e di essere liberate da quella restrizione della loro esistenza che le rende insensibili a tutto. Il governatore ci rispose in maniera evasiva. Quando chiedemmo cortesemente se potevamo fare visita a sua moglie, in un primo momento ce lo concesse, ma poi inventò una scusa. Solo a Kaysar, un piccolo villaggio in un'oasi nella provincia del Turkestan, a nord del paese, con nostra grande sorpresa fummo condotte dal Hakim Saib, il sindaco stesso, senza tante cerimonie, attraverso una porticina, all'interno di un giardino della sua casa, nel giardino delle sue mogli e figlie. Due ragazzine in abiti estivi, capelli scuri avvolti da un leggero velo morbido, ci vennero incontro sorridenti. Erano entrambe molto belle, e lo era anche la madre, dal portamento nobile e lo sguardo serio e gentile, che ci accolse sotto i grandi alberi dove erano stesi alcuni tappeti. Vi giocavano anche i bambini, i fratellini e le sorelline più piccole, e il bimbetto biondo di Sara, la nuora. Il suo secondo figlio dormiva in un'amaca all'ombra. Un po' discosto, sotto la tettoia di una semplice casa di argilla, c'era il samovar. Portarono prima una bacinella d'acqua e alcuni asciugamani, poi tè e frutta. Un'ora dopo ci venne servito il pilaf. La madre mangiò con noi al tavolo alla maniera europea. Le figlie ci servirono e poi si sedettero a mangiare con i bambini sul tappeto. Tutti prendevano il cibo con le dita dalla stessa enorme scodella di riso. Gli abbondanti resti del pasto furono mangiati dalle serve alla fine. Mentre la famiglia della Kim aveva i tratti belli e severi degli afghani, le serve erano evidentemente di razza mongolica, forse turkmene o uzbeke. Dopo pranzo portarono materassi di seta e zanzariere, ma non c'era tempo per riposarsi. Sebbene le ragazze non parlassero nemmeno una parola di francese e noi conoscessimo solo qualche parola di persiano, cominciammo una conversazione animata. Ci portarono un tessuto di seta azzurro e un paio di forbici, chiedendoci di tagliare loro un vestito. Non osammo farlo e promettemmo di mandare loro, da Kabul, delle riviste francesi con modelli da taglio. Per le donne di Kaiser, Kabul rappresentava già il grande mondo, la civiltà. Eppure era stato loro insegnato, in casa naturalmente, a leggere e a scrivere e sapevano dove era l'India, Mosca, Parigi, conoscevano perfino la Svizzera, ma non avevano mai viaggiato. Non riuscivano a immaginare di poter andare mai oltre Mazar-i-Sharif, la capitale del Turkestan afghano. Ma desideravano davvero conoscere il mondo, fare una vita diversa. O sarebbero state per sempre nel giardino ombroso, circondate da alte mura d'argilla di Kaiser, sotto la custodia patriarcale e severa della loro madre e signora. Verso sera, quando iniziò a fare più fresco, la Kim ci fece chiamare. Il piccolo biondo, Yakub, aveva avuto il permesso di accompagnarci fino alla macchina. Le ragazze invece rimasero accanto alla porta del giardino. Erano indubbiamente ragazze intelligenti, dotate e graziose. Ci venne di nuovo in mente il loro sorriso, la loro espressione sveglia e gentile. Solo la giovane nuora ci aveva guardato qualche volta con uno sguardo duro, quasi cattivo, mentre prendeva il neonato dall'amaca per allattarlo. Viveva nella famiglia del marito, tra estranei. Non aveva una casa propria e non aveva nessuna libertà né diritti. Quando queste ragazze uscivano dal giardino, portavano il chador e vedevano il mondo esterno solo attraverso la piccola grata traforata che nascondeva il loro volto agli occhi curiosi degli uomini. Per noi una vita del genere è inimmaginabile. Ma queste donne erano davvero infelici. Si può desiderare solo ciò che si conosce ed era giusto, necessario istruirle, informarle e far nascere in loro il pungolo dell'insoddisfazione. Imparammo ben presto che una domanda del genere non si pone nemmeno. L'Afghanistan si sviluppa oggi secondo le fatali leggi che chiamiamo progresso, il cui corso è inarrestabile. Quando da Kabul mandammo a Kaiser i modelli promessi, anche noi contribuimmo, seppur in maniera minima, a dar seguito a quelle leggi. Combattemmo contro il Chador. Conobbi la donna all'ospedale maschile di Kabul, nella misera stanza, ma riscaldata da una stufa elettrica antidiluviana, della capo infermiera svizzera. Era arrivata con un ghadi, uno di quei piccoli calessi a due ruote trainati da cavalli vivaci che riescono a passare non si sa come attraverso gli angusti vicoli dei bazar della capitale afghana. Portava il chador, lo stesso velo grigio che avvolge la testa come una cuffia per ricadere poi in ampie pieghe dalle spalle fino a terra, nascondendo completamente il corpo delle donne afghane. Lei però non era afghana, era cresciuta in Normandia sulle rive del mare, una bambina felice dalle trecce bionde, amica dei suoi fratelli, del cane nel cortile, dei cavalli dagli zoccoli pesanti, dalle mucche pezzate e pigre, della fontana gorgogliante, delle scogliere, delle spiagge, dei venti freddi della sua patria francese. Mi tese la mano con un gesto timido. Non ero molto a mio agio perché avevo percepito l'arrivo di questa figura triste e spettrale con una sensazione di paura, quasi di orrore che mi paralizzava, eppure avrei dovuto essere abituata. Perché le donne afghane si assomigliano naturalmente tutte nei bazar, nelle strade polverose delle città e dei villaggi, nei giardini cintati dalle case private. Sapevo solo che il chador delle donne ebree è nero, quello delle afghane è grigio o azzurro, ma immagino che vi siano anche altre differenze. Dall'orlo dei chador sbucano le punte ricurve delle ciabatte indossate dalle contadine, i tacchi consumati delle donne povere, i sandali di velluto ricamati delle signore. Ma io vorrei vedere un volto, occhi vivaci, una bella bocca, un sorriso, e invece incontro sempre la stessa grata che mi passa davanti furtiva e so bene che questi esseri impauriti, indifesi, vedono attraverso la grata che copre loro gli occhi appena quel tanto che basta per evitare i cammelli che avanzano ondeggiando, i cavalli tintinnanti dei gadi, gli uomini che procedono allegri e con passo deciso, vivono in una paura costante. Quando la donna capì che non era un ragazzo, si tolse il chador con un gesto goffo. Sotto era vestita l'europea, ma con poco gusto e senza molta cultura. Bevemmo il nostro tè in silenzio, io però avrei voluto farle un'infinità di domande. Perché ha sposato un afghano? Certo, è di buona famiglia, è imparentato con un ministro della corte, ha studiato a Parigi e ricopre già una carica importante nelle poste. È anche gentile, forse un tempo lei lo amava. O è ancora affezionata a lui o a suo figlio, questo bambino dalla pelle scura, turbolenta, arrogante, che non le assomiglia per nulla. Non aveva idea di tutto questo? Che cosa significava allora per lei quel bel nome? Afghanistan. Nella sua totale estraneità, quando lei, appena ventenne, ha scelto un destino sconosciuto e forse proprio per questo motivo straordinariamente affascinante, abbandonando a cuor fin troppo leggero ciò che le era più familiare. Avrei voluto sapere come si vive in una famiglia afghana, dove la madre, le nuore, le cognate, le sorelle, le parenti, i poveri vivono tutte insieme, nutrendosi di ozio, ricamando un poco, bevendo molto tè, mangiando dolci, chiacchierando. E come avevo già avuto modo di constatare, senza essere nemmeno capace di occuparsi dei propri figli. Di fronte all'incredibile disordine di una simile casa, alla pigrizia e alla disobbedienza delle serve, alla sfrontata insolenza dei figli maschi che imparano ben presto a disprezzare le donne, alla sporcizia, alla trasandatezza generale, alla noia, le donne sono impotenti. Non sanno nemmeno che si può vivere diversamente. Come si può mai pensare che una ragazza cresciuta in Europa possa sopportare tutto questo? Che anzi lo condivida, lo accetti, sprofondando nell'agonia di un tempo strisciante, ogni istante perduto per sempre? Come si può pensare che condivida giorno dopo giorno questa esistenza? Che diventi maligna quanto alle cognate o alle vicine? Che partecipi alla tirannia della nonna? Agli infiniti pettegolezzi, dimenticando che fuori, a pochi passi dalle mura del cortile, un cielo luminoso si stende sopra giardini, tetti, vicoli e prati, e sopra una terra che sempre si rinnova e dona vita e conforto. Aveva dimenticato tutto questo. La nostra ospite, l'infermiera svizzera, cercò di mantenere viva la conversazione. Parlò del suo lavoro. Era l'unica europea e l'unica donna qui. Doveva gestire 50 infermieri e assistere 120 malati. Doveva lottare con il ministro della sanità per riuscire a ottenere un termometro perfino l'alcol, perché l'alcol in questo paese, rigidamente islamico, è severamente vietato. Doveva controllare quotidianamente il cibo che veniva preparato in una capanna fuori dell'ospedale. Doveva intervenire con decisione quando il clan dei parenti circondava il letto di un paziente febbricitante tra preghiere e lamenti. Doveva convincere gli infermieri a rifare i letti tutti i giorni, a spogliare e lavare i malati più gravi. Assisteva a ogni operazione chirurgica, faceva personalmente ogni iniezione. A casa, sul lago di Biel, aveva lasciato due figli piccoli. Di loro si occupavano i nonni, mentre lei guadagnava denaro qui, a Kabul, per assistere loro a un futuro. Mentre l'infermiera raccontava con la massima semplicità come sia possibile vivere con dignità una vita molto difficile e portare a termine gli impegni presi, osservava la nostra visitatrice silenziosa. Continuava a mangiare i pezzettini di dolce che immergeva nella sua tazza di tè. Il suo viso, leggermente gonfio, stranamente inespressivo, avrebbe anche potuto rimanere nascosto sotto il velo. «Come sta suo figlio?» le chiese l'infermiera. Lei scoppiò improvvisamente in un pianto silenzioso. Poco dopo, quando arrivò a prenderla il marito, indossò il chador in tutta fretta e se ne andò. Mi astenni da domandare se una donna afghana possa chiedere il divorzio. Era evidente che quella povera donna non avrebbe mai avuto il coraggio di togliere il chador. Il suo viso piatto, anche se piuttosto grazioso, aveva già assunto tratti orientali. Appariva vecchio senza età. Perfino quando era scoppiata in lacrime aveva mostrato solo miseria, ma nessun dolore autentico, nessun pentimento, nessuna fiera ribellione. Ebbi in seguito occasione di conoscere altre donne afghane con e senza chador. La maggior parte di loro si assomigliava a tal punto che la mia memoria è incapace di distinguerle, ma incontrai anche alcune bambine nell'autunno dell'anno scorso, quando il governo aprì la prima scuola alle femminili di Kabul, assumendo donne competenti come insegnanti, le mogli dei professori della scuola francese. Se si vogliono conoscere le condizioni di un popolo, basta guardare i giovani. Nulla in loro risulta ancora deformato, quando dicono non è ancora definito dalle convenzioni, né appetito dalle abitudini, dalle condizioni di vita, dalle costrizioni, e manifestano con meravigliosa spontaneità, intelligenza e gioia di vivere. Le scolarette di Kabul erano bambine estremamente dotate, vivaci e ricettive, altrettanto intelligenti dei maschi. Erano graziose, con occhi così luminosi da rendere difficile immaginare che queste esili figure, questi piccoli volti delicati e attenti, sarebbero stati un giorno rinchiusi all'ombra delle mura di un harem, nella cupa prigionia del Chador. Forse oggi, in Europa, siamo diventati scettici di fronte a parole come libertà, responsabilità, pari diritti per tutti e altro del genere. Ma basta aver visto da vicino questa tetra schiavitù che trasforma creature di Dio in esseri senza gioia, impauriti, per scrollarsi di dosso come un brutto sogno il proprio conforto e dare nuovamente ascolto alla voce della ragione che ci incita a credere ai semplici propositi di un'esistenza degna e umana e a difenderli.